Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti da Riese, provincia di Treviso, in Mazold. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD Reborn, come il primo che è andato in onda. Titolo? Gimme More. La vostra esperienza durante la registrazione e quali idee musicali che hanno dato vita a questo CD? Allora, l'album è stato registrato a Conegliano, allo Garage Studio. È stato completamente in analogico, mixato in analogico, e il mastering è stato fatto in digitale. E il nostro album è stato prodotto da Max, il batterista degli OJM, che salutiamo, cogliamo l'occasione, e ci ha aiutato appunto a registrarlo, e ci ha seguito in tutte le due settimane di registrazione appunto dell'album. E per dar vita a questo CD, beh, diciamo che noi veniamo inizialmente, nei primi periodi, eravamo molto anni 70, poi ci ha appassionato molto di più lo stoner e abbiamo mischiato il nostro stile anni 70 con le sonorità stoner, e Reborn è quello che è venuto fuori praticamente. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. A Waste of Time. Yeah. In uno studio ancora con i Muzzled, recensioni, quali le più lusinghiere e cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa la critica musicale ha puntualizzato? Allora, per fortuna noi abbiamo ricevuto diverse recensioni in Italia, in Germania, in Inghilterra e anche in America. E il punto comune di queste recensioni è che ci paragonano ai Black Sabbath e dicono di noi che siamo un gruppo giovane e che siamo cresciuti a pane e musica. Sono bene, dai. Per riuscire a creare un disco del genere alla nostra età. E dicono che non siamo mai banali, non si sono stancati ad ascoltare il nostro disco, anche se comunque non sono cose innovative, ma è una... come Reborn, diciamo, scorre bene, ecco, insomma, il disco. Sì, esatto, scorre bene ed è da gusto ascoltarlo proprio. E una cosa molto lusinghiera è in America, quando praticamente la nostra recensione è stata fatta nel stesso momento in cui è uscito il CD dei Monster Magnet. E hanno detto, ma perché, cioè in inglese, sì, ma perché noi dobbiamo recensire il nuovo CD dei Monster Magnet quando c'è questo gruppo italiano, ecco, vedi, che in questo momento, dopo gli OJM, sta rappresentando lo stoner in Italia. Cioè, questa è stata un'affermazione che non... onore, insomma, voglio dire, un bel complimento. Sì, sì, assolutamente sì. E dopo anche Soda Shop in Inghilterra e comunque anche in Germania ci hanno fatto molti complimenti, soprattutto alle chitarre e alla voce, che sono i nostri punti di forza, diciamo. In Italia anche giornali come Rumore, Rock Sound, adesso non mi vengono in mente altri. Insomma, comunque, le riviste più importanti, sì, insomma. Sì, ecco, sì, diciamo che sì. Prossima canzone. Prossima canzone è Chains. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con i Muzzled. Rimanete ancora su Radio RCS.